Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Ben ritrovati come sempre con il consueto appuntamento di giovedì con Carta e Penna in diretta radiofonica su CRM Happy Radio. Vi ricordo le frequenze 101.4, il numero di telefono 0921 423456, ma potete anche seguirci se volete, perché no, sul nostro sito internet, e quindi seguiteci su www.crmhappyradio.it. Detto questo, volete anche mandare dei messaggi, fatelo pure su Facebook. Giornate dense di convulsioni, scioperi, agitazioni varie, insomma non c'è da stare allegri. Sul giornale stamattina ancora si parla delle liberalizzazioni e la bozza è il primo sciopero programmato dai tassisti per il 23, sul piede di guerra pure i farmacisti. Il PDL avverte il premier, niente blitz concordate senza che siano stati concordati con noi. Poi di spalla il mondo di Romeo, che è il vescovo, il cardinale Romeo, che è il vescovo di Palermo. Sempre più degrado a Palermo, in 5 anni ho visto l'insensibilità crescere, le emergenze si accumulano e ce n'è per tutti i gusti. Approfondiremo il concetto delle liberalizzazioni. Anche gli autotrasportatori siciliani sciopereranno nei giorni futuri per il caro benzina, il caro nafta naturalmente, ma anche per le troppe tasse che pesano anche sul trasporto, e queste vanno ad incidere poi sulla commercializzazione dei prodotti. Bloccheranno, dice una nota dei sindacati di categoria, bloccheranno il porto di Messina, non consentiranno ai colleghi di oltre stretto di oltrepassare il medesimo, e quindi venire a scaricare merce del nord nei nostri siti siciliani. Non ci sono commenti da fare se non il fatto che ogni giorno lo spread non sia ancora sceso nei confronti dei Bund tedeschi. Il nostro premier è stato in giro per l'Europa, ha incontrato prima Sarkozy, poi ha incontrato il premier, la Merkel, in Germania, la quale ha riconosciuto gli enormi sforzi che noi stiamo facendo in Italia, ma ancora non si toccano le caste vere e proprie, tranne l'altra sera un ex ministro del PDL aveva detto, aveva chiesto a Katikalà, che è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, aveva chiesto come mai non si siano messe le mani in quei miliardi fermi in Svizzera. Katikalà ha risposto che se il caso interverranno anche in quel senso, però si rischia di fare l'ennesimo favore con, come dire, non vogliono fare quello che ha fatto per tanto tempo il governo Berlusconi, cioè le moratorie, non vogliono passare per un governo che faccia delle moratorie. Però intanto migliaia di miliardi sono fermi in Svizzera, e intanto il governo tartassa i pensionati, i lavoratori, le piccole e medie imprese, e sinceramente siamo in un quadro di patologia acuta, dove questo ferito non si sa se si aggraverà nel tempo o se invece risorgerà alla grande. Prima di dare linea alla regia, perché abbiamo un collegamento in diretta radiofonico, volevo ringraziare e salutare la perla di Enju a Gangi, ed è il Parco Hotel, sala ricevimenti ma anche congressi, un stile Liberty straordinario, una struttura meravigliosa, bella da vedersi soprattutto di notte, perché è incastonato in un verde, un polmone verde delle Madonie, a pochissimi metri, a pochissimi, proprio un tiro di schioppo da Gangi, che è un comune carino, graziosissimo, di antiche tradizioni. Lo trovate appunto nelle alte Madonie, ma la perla di Enju d'estate poi vi offre non solo la frescura e la bellezza dei luoghi, ma vi offre anche la possibilità di stare a bordo piscina, godervi nel silenzio assoluto della campagna un sano bagno in piscina, anche perché no, un sano bagno di sole a Gangi. Bisogna salutare anche Psico Palazzo Hotel, questa volta a Castelbuono, con delle sale, le camere sono super accessoriate, è un albergo a 4 stelle con un bar di tutto riguardo e una ristorazione di tutto rispetto. Lo trovate anche questo a Castelbuono, il Psico Palace Hotel, con cucina tipica regionale ma anche internazionale, a due passi proprio, siamo agli inizi del paese di Castelbuono, non potete sbagliarvi, c'è anche un ampio parcheggio riservato a chi scegliesse di passare un weekend o le proprie feste, perché no, in questo stupendo albergo, il Psico Palace Hotel a Castelbuono, albergo a 4 stelle in via Cefalù 11, mi raccomando, andatelo a trovare. Adesso desideravo invece presentarvi l'ospite che è in diretta radiofonica in questo momento ed è un ospite veramente di tutto riguardo e di tutto rispetto. È un personaggio che sta facendo molto parlare di sé, ma ha fatto parlare di sé tantissimo nel passato. Pensate, è riconosciuto a livello europeo dagli americani che sono i genitori naturali del soul e del blues, il primo bluesman a livello europeo. Lui ha una band di ben 18 elementi, tutti nord, rigorosamente nordamericani, che hanno suonato, compreso lui, con i mostri sacri del soul e del sound, ma anche del gospel statunitense. Stiamo parlando del grande, grande, grande, grande Joe Castellano. Joe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo intanto di questa mega galattica band. L'abbiamo vista per 2 anni consecutivi, forse più, a Castelbuono, esibirsi nella piazza principale. Aver saputo coinvolgere un pubblico che oscilla tra i 4.000 e 5.000 persone, dai più piccoli ai più grandi, da vederli danzare è stato uno spettacolo. È la forza del soul, è la forza del blues, è la forza dei tuoi artisti o è la forza creativa e trascinante di questa musica che insomma investe in pieno quelle che sono le sensibilità dell'essere umano? Bah, io penso che è un po' tutto questo messo insieme, no? Che sicuramente il soul è una musica che di suo trascinantissima, è una musica che tra l'altro unita, come io ho fatto, al rhythm and blues e alla musica latina, perché io accenno sempre in molti dei miei brani, perché io ricordo che il mio concerto è prevalentemente fatto da brani miei composizioni, no? Ecco, sei anche un compositore. Esatto, quindi mettere tutto insieme con un accento latino, tutto questo provoca una miscela sicuramente veramente esplosiva, diciamo. E Già tu. quindi vedere poi tantissima gente che con noi balla, che si emoziona, che fino all'ultimo bis diciamo è super coinvolta dalla nostra musica, non può che essere una gioia immensa per tutti. Senti, tu hai fatto un connubio straordinario, hai fatto uno sposalizio meraviglioso, cioè il gusto del vino di concerto con la musica, con il soul e il blues, no? Infatti, tu dal 2003 ti sei adoperato a portare in giro per tutta Italia. È un progetto che quest'anno ha sposato anche la regione siciliana, se non vado errato, mi Sì, correggi? esattamente, sì, è l'assessorato al turismo che da quest'anno e da questo winter che stiamo facendo in corso Sì. è entrata in titolarità, cosiddetta, quindi è entrata Sponsor a ufficiale, insomma, promuovere diciamo. direttamente tutto questo grande cartellone. Allora, per capirci bene, tu nel 2003 hai messo in piedi questa grande band, hai girato tutta l'Europa raccogliendo applausi e applausi, naturalmente, e una critica costruttiva soprattutto dagli statunitensi, che sono poi i genitori naturali del blues, del soul e del sound, o sbaglio? Sì, Ecco. vabbè, devo dire che fortunatamente abbiamo ricevuto applausi Beh, questo è importante. e quindi cioè, è stato tutto una cosa che io ho cercato anno dopo anno, tra l'altro, di fare crescere, di fare salire sempre sia come livello che come audience, perché tu considera che adesso è il festival più grande che c'è un po' in tutto il mondo, perché abbraccia tutta la Sicilia, quindi ha un'estensione anche diciamo non da poco. E quindi insomma tutto è connesso poi a quello che facciamo e anche gli americani si sono accorti di questo. 2 domande mi sorgono spontanee, di solito dico così. La prima, da dove nasce l'idea di concertare, di sposare il gusto del vino siciliano in primis e poi italiano in generale con il blues? Qual è l'attinenza? Ma sai, sono due grandi passioni, io ho sempre detto, passioni che nascono entrambe dalla terra. E quindi, nascendo tutte e due dalla terra, sono passioni e linguaggi che fanno parlare popoli di tutto il mondo, linguaggi mondiali. E questo è quello che alla fine mi ha spinto a unirli e penso che l'unione sia stata fino ad oggi fortunata, diciamo. Senti, Gio, nel tuo entourage, parlavo prima che ti intervistassi, ci sono ben 18 elementi che eseguono brani scritti da te, ma eseguono anche brani famosi nel mondo, perché ci sono dei musicisti, non so, ci sono due sassofonisti per esempio e il chitarrista che hanno suonato con mostri sacri del soul e in America, ricordiamone qualcuno, Ray Charles, ricordiamo gli Aklan Funker e tantissimi altri grossi nomi prestigiosi di questa musica internazionale, ma soprattutto statunitense, è così? Sì, tu considera che io fortunatamente aggiungo sempre nuovi special guest nella mia lista. Spieghiamo questo termine in inglese perché la gente che ci ascolta... Nuovi ospiti. Nuove grandissime star. E quindi è tutto connesso a un giro di grandi ospiti che militano in band, come hai citato tu, da Santana a Tom Jones a Twin Fire a Diana Ross. Ah, bravo. E quindi ho la fortuna di condividere i miei musicisti con queste leggende della musica mondiale che io stesso adoravo fin da quando ero bambino. Allora, tu hai fatto un percorso estivo toccando i maggiori teatri europei, ma anche i maggiori teatri italiani, da Roma a Napoli, Salerno, eccetera, no? Adesso è partito questo progetto, che ha sposato benissimo l'assessorato al turismo della regione siciliana, di fare delle tappe anche invernali. Una prima tappa l'abbiamo fatta a Castelbuono, poi spiegherò perché l'abbiamo fatta. Sì. Ed è stato un successo di pubblico straordinario. In questo momento sei in onda anche video, siamo su internet e quindi ci stanno seguendo, stanno vedendo la tua band e tu che dirigi l'orchestra, qui ti vediamo accanto a un grande della musica blues americana, non so di chi si tratti perché devo seguire la trasmissione nel parlare, devo concentrarmi e non posso seguire la didascalia che viene sottoposta sotto le foto che via via vanno in onda. Ecco, Diana Ross, tu che dirigi, che suoni insieme alla tua band. Ti stavo dicendo, quindi una tournée invernale che ci coinvolge ben quattro date, hai avuto un successo personale, perché il creatore sei tu, chi dirige l'orchestra sei tu, e l'ideatore di questo tour sei tu, di concerto, ripeto, con la regione siciliana, che ha sposato in pieno questa tesi e secondo me bene ha fatto. Sì. Dunque, gospel a Castelbuono, una cantante, un coro straordinario, ha coinvolto diverse, moltissime persone che sono intervenute nonostante la pioggia, la neve, il freddo intenso di quella sera, ma è stato un grande successo. Dopo Castelbuono saremo invece due giorni a Marsala e un giorno a Siracusa. In tutto questo iter, chi vorrà venirci a vedere, chi vorrà venirvi a vedere e ad ascoltare questa sanissima e bellissima musica che tu proponi, dal soul, dicevo, al gospel, per passare al blues, cosa ci si deve aspettare da chi ti viene a vedere a Marsala e a Siracusa? Beh, sicuramente è un grandissimo show, uno show come sempre di altissimo livello. Noi faremo per esempio su Marsala una prima serata più dedicata al gospel, con questi grandi musicisti che ho coinvolto anche per questa volta. Per esempio ci saranno tre nuovi musicisti americani nella band, come Sean Holt, che è sassofonista di Carlos Santana e di Michael Bublé, poi ci sarà Bill Churchill, che è un trombettista favoloso, un mio grande amico, che negli ultimi anni è stato trombettista del mio amato Tom Jones. Poi per esempio alle percussioni un percussionista molto conosciuto in Italia, lui è peruviano ma da anni ormai collabora in Rai, che si chiama Paolo La Rosa. Quindi sono tutti grandissimi talenti. Poi c'ho i miei soliti cantanti che sono ormai conosciutissimi: Cedric Ford, Gordon Metz, il sassofonista Robbie Edwards, c'è il bassista Alec Milstein, che viene da band come Diana Ross. Quindi sono tutti top, grossi professionisti, top artist che come tu sai danno vita a uno show straordinario, straordinario. Te ne do atto. E tra l'altro do un'anteprima. nello show del sabato di Marsala del 21 gennaio, ho voluto assieme a me, anche visto il momento successivo al Natale, un grandissimo coro di gospel siciliano, di grandi amici che hanno un bellissimo coro multietnico che abbraccia ragazzi di ogni continente, che si chiama Gospel Project, e che è formato da circa 40 elementi, quindi uno spettacolo. Ad un certo punto sul palco su Marsala saremo il sabato sera, penso intorno a 60 musicisti sul palco. Una cosa stratosferica, meravigliosa. Gio, prima di salutarti ti chiedo i futuri impegni invece in prossimità della primavera, quindi dell'esplodere l'estate. Ma sicuramente subito dopo questi impegni del Frozen Wine Winter lavorerò al disco che già è in cantiere, a cui ho iniziato a lavorare da settembre. Lo completerò perché vorrei che uscisse intorno ad aprile prossimo. E sicuramente lavoreremo, come già stiamo lavorando, a un'edizione specialissima estiva del Blues and Wine Festival, perché l'estate prossima festeggeremo ben 10 anni di evento. Insomma, le nozze d'argento, per così dire. Le nozze d'argento. E Gio, prima di salutarti, molto velocemente, intanto quando finirai il tuo lavoro su questo ultimo disco che tu andrai ad incidere, ci farebbe cosa gradita avere una copia qui in radio, così facciamo ascoltare agli ascoltatori la vera musica. Anzi faremo magari un intervento assieme, un'intervista assieme, se vi va. E questo, no, come no, ci mancherebbe pure, insomma, non puoi esimerti, non puoi scapparmi, lo sai che non puoi scappare, non mi puoi scappare. Dunque, intanto ti facciamo gli in bocca al lupo, io a nome di tutta la redazione, per questo mini tour che si concluderà a Siracusa, ricordo, il 21 del corrente mese, quindi chi vuole può raggiungerci a Marsala prima e a Siracusa. Se ricordiamo le location dove sono a Marsala e a Siracusa, faremo una cosa gradita come informazione completa. Sì, esattamente. Dove siamo a Marsala? Allora, a Marsala siamo al Teatro Impero, alle ore 21, sia il venerdì 20 che il sabato 21, anche se sottolineo a dire che nei due pomeriggi di questi due giorni ci saranno anche delle sfiziosissime assaggi di cucina siciliana presso l'istituto alberghiero di Marsala Abele Damiani. Bene. Che andranno dalle ore 17 alle ore 20. Invece a Siracusa? Su Siracusa saremo nella sala Salvo Randone, con inizio sempre alle ore 21, ma anche lì ci sarà nelle ore prima di questo grandissimo show finale degustazioni di grandi vini siciliani. Speriamo di non ubriacarci, che la serata insomma sia sobria, perché se ci ubriachiamo sul palco, voglio dire, nasceranno dei seri problemi, insomma, per la conduzione e per lo svolgimento normale della serata. Di rimanere sobria. D'accordo, nell'augurarti buon viaggio, grazie per aver accettato l'invito e grazie a parlare a voi, di te, della tua band. E vi aspetto tutti, o a Marsala o a Siracusa. Ti abbraccio tanto, alla prossima puntata. Naturalmente noi ci vediamo poi nei giorni futuri, la linea torna energia. Grazie ancora Gio, buon lavoro. Un abbraccio a tutti. Allora, rieccoci in diretta radiofonica, vi ricordo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, state ascoltando Carta e Penna su CRM Radio, potete anche seguirci via internet www.crmradio.it oppure potete inviarci degli sms al 335 56 37 251 o se volete scriveteci su Facebook. Dunque, abbiamo parlato con Gio Castellano, abbiamo capito un attimo di chi stavamo parlando, di cosa fa Gio Castellano, di cosa si è inventato questo connubio musica soul di concerto con il vino, Wine Festival si chiama così, e quindi sono degli eventi straordinari che non dovrebbero mai smettere di esistere, perché quantomeno ci consentono di passare alcune ore serene e non pensare a tutte le cose brutte che stanno succedendo in questo momento nel mondo, ma soprattutto nel nostro paese. Ci sono due note di agenzia, la prima è questa, dunque a Cefalù un signore russo, il signor Anton Verdob, ripeto, Anton Uberdob, scusate il cognome ma è complicato. Allora, il signore è un signore russo, a Cefalù ha smarrito il proprio passaporto. Chi l'avesse trovato può chiamare il 328-200-925. Ripeto, il signor Anton Uberdob, cittadino russo, in questo momento in vacanza a Cefalù, ha perso il proprio passaporto. Chi l'avesse trovato può mettersi in contatto col seguente numero 328-200-9225. E invece da mercoledì, questa è una nota della nostra emittente radiofonica di CRMP Radio, da mercoledì 18 gennaio 2012, quindi del corrente anno, si aprono le selezioni per accedere al secondo corso gratuito di formazione radiofonica. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito che è www.crmeperadio.it, e anche questo l'abbiamo detto. Invece la cosa che mi premeva un attimo chiarire, in attesa di sentire il secondo ospite della trasmissione, parleremo di viabilità ancora una volta, c'è un'annosa storia che si ripete in quello delle Madonie, nell'asse San Mauro Gangi Geraci Sicolo, la strada che congiunge questi tre comuni, che consente l'interscambio culturale, economico e quant'altro di questi tre comuni madoniti, e purtroppo è stata dichiarata inagibile dall'assessorato provinciale nella persona del dottor Tomasino, che non è stato raggiungibile oggi, ma lo cercheremo nelle prossime settimane per capire se si mette mano a questa benedetta strada, che è un'arteria fondamentale per lo sbocco di San Mauro, di Gangi e di Petraria, e senza questa arteria molti degli allevatori, dei coltivatori diretti che orbitano su quelle zone sono impediti nel raggiungere i propri siti lavorativi, per cui è un'arteria di tutto riguardo, di tutto rispetto. Poi pensate che se partite da San Mauro arriverete a Gangi, potete arrivare anche a Geraci Sicolo, ma svoltare anche per Castel di Lucio e proseguire, se volete, per Nicosia, quindi è un'arteria non indifferente, non di secondo piano. Ne parleremo tra poco, se sarà possibile raggiungerlo telefonicamente, perché è in viaggio, e quindi ci auguriamo che la risposta sia affermativa, il sindaco di San Mauro Castelverde, il dottor Mario Azzolini, e lo chiameremo tra pochi minuti. Intanto, leggendo, dicevo, il giornale, stavamo parlando delle liberalizzazioni, la bozza è stata presentata ma c'è il primo stop da parte dei tassisti, i quali sono preoccupati per la liberalizzazione delle licenze e quindi hanno già proclamato uno sciopero. Una cosa che ancora una volta fa specie, nel senso che ci stupisce, ci allarma, è ancora la politica che fa parlare di sé. Doppio incarico all'ARS salva Buzzanca, resta sindaco di Messina ed è contemporaneamente deputato all'Assemblea regionale siciliana. Giuseppe Buzzanca non dovrà dimettersi né da sindaco di Messina né da deputato dell'ARS, almeno fino a quando non lo deciderà con sentenza definitiva un giudice. Ci vorranno nella migliore delle ipotesi 3 anni, ma a quel punto la legislatura sarà finita da un pezzo e il deputato del PDL avrà mantenuto tranquillamente il doppio incarico. È l'esito del voto avvenuto ieri in commissione verifica l'ARS, che fa di Buzzanca uno dei pochissimi sindaci in Italia rimasti col doppio incarico. A questo risultato il PDL è arrivato sfruttando una serie di cavilli giudiziari e regolamentari. La posizione di Buzzanca era in bilico da mesi perché la Consulta aveva sancito il no ai doppi incarichi. Contro Buzzanca pendeva anche un ricorso in via amministrativa del primo dei non eletti del PDL a Messina, Antonio D'Aquino, nel frattempo passato all'MPA. La commissione verifica poteri era pronta a decidere a fine dicembre, ma Buzzanca ha eccepito che il Senato stava varando un regolamento che poteva salvarlo. La decisione è stata rinviata a ieri. E questa, insomma, dicevo, fa specie, perché in un momento nel quale, e anche ieri sera Porta a Porta, adesso ne parleremo, in un momento nel quale si parla di decurtare, si parla di tagli, si parla di tasse da pagare, e guarda caso i primi a pagare sono sempre i meno ambienti, cioè i pensionati. Proprio ieri in televisione su Rete 4 è stata intervistata una signora che vive con 260 euro di pensione mensile a fronte delle 9.000 euro che prende invece il barbiere del Senato o della Camera dei Deputati di Roma. Ieri sera Porta a Porta, non so quanti di voi l'hanno seguita la trasmissione, io ogni tanto mi diletto nel seguirla e non vi nascondo con una certa rabbia e una certa vergogna, vergogna di essere un elettore, e rabbia perché naturalmente a fronte di sacche di povertà, a fronte di pensionati che non riescono ad arrivare manco al primo del mese, non al fine del mese, a fronte di persone che sono in cassa integrazione, a fronte di persone che hanno perso il posto di lavoro e si suicidano perché la dignità dell'uomo è sacrosanta, e di conseguenza non mi sento assolutamente di criticare nessuno. C'è chi dice: beh, la vita va affrontata così come viene, ma quando un padre di famiglia si trova a casa senza possibilità di dare sopravvivenza ai propri figli, di non poter imbandire la tavola, mangiare il giusto, non il più, e di non potersi permettere neanche il lusso di pagare un caffè a un amico, mi pare che questo, insomma, se poi tenta il suicidio, cioè nella maggior parte dei casi ahimè ci riesce, significa che lo Stato, questo benedetto Stato, non fa nulla. Lo Stato siamo noi, e siamo noi che abbiamo contribuito a portare questi signori in Parlamento, i quali poi decidono di dare al barbiere del Parlamento o del Senato della Repubblica 9.000 euro, o peggio ancora a chi sta seduto, lo vedete quando inquadrano l'emiciclo del Senato o della Camera dei Deputati, sapete che ci sono quei signori, a volte sono donne, a volte uomini, che sembrano che sono le tastiere che fanno della musica, in realtà sono gli stenografi che prendono gli appunti e registrano tutto quello che nel Senato o nella Camera dei Deputati avviene. Bene, queste persone, senza nulla togliere alla loro professionalità, percepiscono da 9.000 a 9.600 euro mensili. Ora io mi chiedo, cari amici radioascoltatori, e vi chiedo: è legittimo che un vigile del fuoco, che spesso e volentieri ci azzecca le penne, per parafrasare il capo del partito dell'IDV, dell'Italia dei Valori, Di Pietro, che ci azzecca, in questo caso ci azzecca, cioè ci rimette la vita, ci rimette le penne per salvare una persona che sta magari in mezzo alle fiamme, che sta magari in mezzo a un terremoto, ci rimette la vita, e alla vedova danno l'80% di pensione che dovrebbe andare a percepire il vigile del fuoco che è morto purtroppo nell'adempimento del proprio dovere. Il carabiniere, che spesso e volentieri, non parliamo dei carabinieri dei piccoli centri, che magari raramente subiscono delle vessazioni o perdono la vita perché la micro o la macro criminalità nei piccoli centri è più ridimensionata, è più a dimensione umana, per cui non può succedere quello che magari, o raramente succede quello che è successo a Roma o che può succedere a Palermo o Catania nei grossi centri. Beh, un carabiniere che percepisce 1.800 euro al mese ma di contro dà la propria vita, mi pare che ci sia molto, ma molto da riflettere su queste cose. Per cui la cosiddetta casta, io non chiamo casta, chiamo i signori senatori e deputati. Proprio 10 minuti fa leggevo su un giornale che il nostro presidente del Senato Schifani, di concerto all'opposizione, oggi sono tutta una cosa lì in Parlamento, PDL, terzo polo, quarto polo, non si capisce più nulla, sono insieme alle Maldive, cioè alla faccia del bicarbonato di sodio, cioè alla faccia di chi non riesce a pagare la bolletta della luce. C'è gente come il nostro presidente del Senato Schifani, se ne va tranquillamente con i suoi 20-15, ieri sera si parlava che il deputato, il senatore italiano percepisce meno rispetto ai colleghi tedeschi e ai colleghi francesi. Beh, signori deputati italiani, signori senatori italiani, voi percepite meno, anche perché il nostro Stato non vi consentirebbe di darvi di più. Già prendete abbastanza, a mio modesto punto di vista. Per cui cercate di ridimensionarvi e di ridimensionare tutte quelle caste che voi avete creato a vostra immagine e somiglianza, dando meno possibilmente agli stenografi, anziché 9.000, gli date 4.000, già ci va meglio, date qualcosa in più ai vigili del fuoco, qualcosa in più ai personale paramedico, qualcosa in più a chi rischia la vita nel quotidiano e meno naturalmente a chi non rischia proprio nulla, perché il barbiere del Senato, della Camera dei Deputati, al massimo può rischiare di sbagliare il taglio di capelli a un senatore o a un deputato, o di tagliargli la faccia se si distrae un attimo. Al carabiniere, al vigile del fuoco, al conducente dell'ambulanza, al coltivatore diretto, al muratore, al metalmeccanico può succedere di perdere la vita, di perdere un arto, di perdere la salute, come spesso è successo a chi ha lavorato nelle miniere, perché si sono poi ammalati di gravissime malattie polmonari. Per cui voglio dire, di fronte passi che il senatore deve avere la sua rappresentanza, il suo portaborse, che debba avere degli incentivi, mi sta bene. Non mi sta bene invece il fatto che c'è gente che, senza far nulla di eclatante, senza che rischi nulla, vada a percepire degli stipendi così grossi, così gonfiati, a fronte di gente invece che nell'ombra lavora serenamente, rischiando la vita, dando la propria vita per la collettività, e se ne va, scusate, con uno stipendio di 1.700-1.800 euro. Allora, se tutto questo è democrazia, se tutto questo è equità davanti alla legge, mi pare che dovrebbero cambiare la scritta che ci sono nei tribunali: la legge è uguale per tutti. Bisognerebbe aggiungere un'altra frase: a secondo i casi. Detto questo, mi fermo, no, mi sono un attimo accalorato, perché non è possibile che i cittadini debbano vedersi depauperati i propri soldi e poi i sacrifici vengono chiesti sempre ai 4-4, tutti gli altri se la fanno franca. È inutile che l'ufficio delle entrate va a Cortina d'Ampezzo, andasse al Senato della Repubblica e andasse a vedere al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana quanti sperperi ci sono, e andassero a recuperare lì i miliardi che si sono fregati fino ad oggi, perché non è certo il pensionato che si è fregato i miliardi, non è certo l'artigiano che si è fregato i miliardi, ha fatto i buchi della nostra non crescita economica in Italia. Sono stati questi depauperamenti, sono state queste elargizioni in maniera smodata a chi non li merita, evidentemente, e poi le conseguenze le va a pagare il povero Cristo. L'augurio che mi faccio, e che faccio a Schifani in quanto Presidente del Senato, a Napolitano in quanto Presidente della Repubblica, l'augurio che mi faccio è che i cittadini italiani non si rompano le scatole di questo status quo e facciano succedere delle cose che poi diventano veramente eclatanti e gravi. Ci auguriamo che questo non accada, che Monti abbia buon senso, che abbia buon senso tutta la casta politica vecchia e nuova, anzi che al più presto questi signori se ne vadano a casa, perché tanto, come diceva ieri sera un collega prestigioso, un direttore di giornale, ha detto: non avete fatto altro che creare imbrogli, impicci e inciuci, e quindi null'altro avete fatto nell'interesse della nostra nazione. Sarebbe il caso che voi deste le dimissioni e ve ne andaste a casa a far quello che non avete fatto al Senato, cioè a lavorare. Detto questo, ci fermiamo un attimo. Volevo ricordarvi soltanto alcuni altri sponsor. Ecco, in un momento di crisi economica, beh, si può anche risparmiare mangiando ugualmente della buona qualità di carne. In questo caso vi parlo della cooperativa IACC di Farinella a Gangi, via Nazionale 60. Perché ve ne parlo? Perché fa delle cose veramente belle, con della carne con tracciabilità madonita, per cui con pascoli veramente incontaminati. E portate a casa, ve l'assicuro, un piatto di tutto riguardo e di un gusto ancora di altri tempi. La salsiccia di puro suino, per esempio, o la salsiccia capriziosa, i salami, il cacciatorino o il salame felino, la salsiccia asciutta, che è buonissima, di questi tempi potete farla anche con l'uovo, oppure l'olio di vitello, la rista al pistacchio o al pepe rosa, in voltini di vitello, in voltini di maiale, oppure i formaggi di tutti i tipi. Beh, ricordatevi questo nome, cooperativa IACC di Farinella a Gangi. Vi do il numero di telefono: 0921 6450 44. In un momento nel quale anche la bolletta va aumentata e aumenta il gasolio, ci sono aumenti a 360 gradi, è importante tagliare almeno la bolletta dell'Enel. Cosa bisogna fare? Semplicemente chiamare l'800 111 341, vi risponde Media Elettra di Badalamenti Angelo e C, E cosa bisogna fare? Montare il fotovoltaico sui vostri tetti. Abbiamo tutti quanti, bene o male, o in affitto o di proprietà delle case, mettete questi pannelli fotovoltaici sul vostro tetto, questo vi azzererà la bolletta della luce e nello stesso tempo vi consentirà di guadagnare sull'energia in più che avete prodotto. Il sistema si chiama SunPower e l'unica in grado di poter fare questa operazione è la Medio Elettra in via Ugo La Malfa 61 a Casteldaccia. Il numero verde per maggiori informazioni è l'800 111 341, per abbassare o per tagliare del tutto la vostra bolletta dell'Enel e guadagnare anche su quello che produce il vostro pannello solare. Volevo soltanto ricordarvi, so che è un momento particolare, lo dicevo prima, però i regali bisogna sempre farli quando si possono fare, perché no? Andate da Piscitello Preziosi, via Corso Umberto 1 a Gangi, oppure visitate il sito www.piscitellopreziosi.com. I gioielli, beh, le firme sono straordinarie, parliamo dei solitari, per esempio come Cometa Gioielli, Nardelli e Donna Oro, per gli orologi Sector, Philip Watch e poi Bresson. E ancora i prodotti fashion e acciaio, gli orologi in acciaio come Nomination, Alviero Martini e Roberto Cavalli. Sono firme di tutto riguardo. Poi se vi piace anche le linee capezzali in olio su tela, beh, insomma, Piscitello Preziosi può offrirvi di tutto e di più. Sui prezzi vi mettete d'accordo con la Piscitello, l'azienda, sicuramente vi farà degli ottimi sconti visto i periodi che ci sono in questo momento, e portate a casa veramente un pezzo di gioiello o un orologio di tutto rispetto, di tutto riguardo. Se volete, fatevi anche questo regalo, visto che nessuno pensa a noi, pensiamoci almeno noi a farci dei regali o a fare dei regali per far sorridere gli amici o le persone a noi più care. Detto questo, io direi di rarire un attimo alla regia. Al ritorno dovremmo avere il sindaco di San Mauro Castelverde, il dottor Mario Azzolini, in diretta radio per disquisire e capire cosa sta succedendo su questo benedetta arteria San Mauro Gangi. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via, il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua e non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare, hey! Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'arego sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua, già, già. Io sono ancora qua. Già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia. poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà col cuore che batte più forte? La lotta da passare, al diavolo non si vende. Io sono ancora qua. Dalle 10.15 in poi, e volevo ricordarvi che da mercoledì 18 gennaio 2012 si aprono le selezioni per accedere al secondo corso gratuito di formazione radiofonica. Per maggiori informazioni visitate il sito www.crmepiredio.it. Invece volevo ricordare che il signore russo, il cui nome è Anton Uberdob, ha perso il passaporto a Cefalù. Chi l'avesse trovato può contattare il 328-200-9225. Detto questo, dicevo, mi scuso per l'essermi accalorato. Io desidererei avere qualche volta qui nei nostri studi, perché no, anche telefonicamente, un personaggio del mondo della politica. Intanto la regia mi dice che il collegamento non è stato in questo momento ancora riattivato attivato con il sindaco di San Mauro. Dicevo che era in viaggio, quindi non era semplice. Non era semplice poterlo raggiungere. Dicevo che mi sono un attimo accalorato perché le cose che vanno in controtendenza, si parla di giustizia sociale, di equità sociale, ma tutto questo a quanto pare non è stato ancora posto in essere. Si è parlato di casse, si è parlato di pensioni, si sono ritoccati gli estimi catastali, insomma si è fatto di tutto tranne che toccare quelle che sono le priorità in assoluto dei Gotha, cioè degli intoccabili, che hanno anche isole felici dove depongono le loro uova d'oro, che sono poi i miliardi che hanno accantonato. Sta bene il fatto che la gente, cioè che gli agenti dei vari uffici entrate vanno a scovare chi possiede un SUV di 50-60 mila euro e poi va a dichiarare 30 mila euro di 7,40, ma voglio dire, non è solo così che si combatte il sommerso. Il sommerso o anche la fuga di capitali. Secondo il mio modesto punto di vista, bisogna anche intervenire sul lavoro con meno tassazioni, perché è del tutto evidente che se una persona riesce a guadagnare di suo come libero professionista i suoi 50-60 mila euro all'anno e poi i 35-40 mila euro devono essere dati allo Stato tra ICI, IRPEF, INAUR, INTE e tantissime altre chiamate che ci sono, ahimè, all'interno del nostro sistema finanziario, è del tutto evidente che quando uno può evadere le tasse, le evada. Sbaglia, perché evadendo le tasse arrivano meno soldi allo Stato, e lo Stato poi non può sopperire alle mancanze, vedi scuola, vedi sanità, vedi viabilità, eccetera. A questo proposito mi piacerebbe chiedere, per esempio, alle Ferrovie dello Stato italiano, visto che dobbiamo pagare tutte queste tasse, come mai i treni a lunga percorrenza sono stati, se non erro, salvo smentite, sono stati interrotti, cioè sono stati tolti, e chi parte da Palermo deve fermarsi a Messina, traghettare a piedi e riprendere a Villa San Giovanni il treno che poi ti porta a Roma e da ricambiare per andare a Milano? Tutto questo non ha senso. Se io pago le tasse, è chiaro che le ferrovie devono essere efficienti, come deve essere efficiente il trasporto marittimo e così anche quello viario, cioè gli aeroporti e gli aerei. Se ciò non accade, c'è un motivo. E allora, per quale motivo il popolo siciliano, il popolo sardo, il centro-sud deve essere penalizzato a questo punto pagando le proprie tasse come li pagano tutto il resto degli italiani del nord? Non è campanilismo, è soltanto equità fiscale. Io pago le tasse, ma a fronte di queste voglio scuole efficienti, sanità efficiente, viabilità efficiente, autostrade efficienti, gallerie illuminate e tutto quanto. Se ciò non accade, ed è tutto evidente, che non mi viene per nulla spontaneo rivolgermi allo Stato dandogli i soldi che lo Stato mi chiede. Se invece lo Stato diventa una, un ente che mi supporta nelle mie attività, che non mi vessa, che mi sta a fianco, è normale che io in maniera regolare, in maniera tranquilla, non mi costa nulla dichiarare il vero e quello che dichiaro dare le giuste tasse allo Stato. Se poi mi accorgo che ci sono delle discrepanze tra me che sono libero professionista, dell'impiegato che alla fonte gli sottraggono i soldi e quindi al netto non va a percepire 1.400 ma va a percepire 1.100 euro e quindi paga anche lui le tasse, se poi mi accorgo che qualcuno che so perché lavora dentro un'istituzione come il Senato o fa il magistrato di alto bordo va a prendere 30.000 euro all'anno, al mese, scusatemi, e capite che insomma c'è qualcosa che non funziona e non mi viene per nulla facile andare a pagare le tasse. Questa è la differenza. Oggi ho avuto il piacere di incontrare un rappresentante delle istituzioni, non posso dire di chi si tratta per ovvi motivi di riservatezza, e questo mi diceva: egregio signor Glorioso, noi del Centro Sud Italia abbiamo la percezione del governo dello Stato come un nemico, non come un amico, e facevamo dei parallelismi tra come ci si comporta in Inghilterra, tra come si ci comporta negli Stati Uniti, dove il senso dello Stato è forte, ma dove lo Stato non ti vessa. Ci sono anche lì delle discrepanze, per carità, ci sono anche lì delle sacche di ricchezza e di povertà, però le cose vanno molto meglio rispetto a come vanno giù da noi. Il centro-sud, mi faceva notare questa persona, ripeto, che è investita di una certa carica istituzionale, mi diceva: percepiscono le forze dell'ordine, percepiscono le forze armate, percepiscono i politici e quant'altro come dei nemici, perché nei secoli passati il centro-sud Italia, nella fattispecie la Sicilia, ha subito diverse dominazioni ed è stata sempre depauperata dell'oro che questa Sicilia ha avuto, prima il grano, poi le tasse e via via di questo passo, per cui i fenici, gli arabi, i normanni, gli svevi, gli aragonesi, per andare a finire poi al regno sabaudo e dulcis in fundo questo benedetto Italia Unita, questi 150 anni d'Italia Unita, non hanno fatto altro che decurtare dalle tasse del povero siciliano, del povero centro-sud, del popolo del centro-sud Italia, soltanto soldi, soldi, tasse, tasse, tasse. Quindi non abbiamo mai visto e non vedremo mai di questo passo nell'interlocutore dello Stato un nostro amico, lo vediamo sempre come un nostro acerrimo nemico che ci vessa, ci controlla, ci consiglia o per peggio ancora ci obbliga a fare delle cose che a noi sembrano veramente fuori luogo. Come mai queste cose non accadono negli altri Stati? Beh, bisogna vivere negli altri Stati per capire cosa significa democrazia, cosa significa trasparenza, cosa significa se un deputato sbaglia o se un presidente della Repubblica o degli Stati Uniti commette un errore, beh, viene messo subito alla porta. E allora bisogna partire da che cosa? Dal cambiare mentalità del nostro Stato, dei nostri governanti. Se il governo, se lo Stato riconosce ai cittadini, voglio dire, riconosce riconosce le qualità che questo popolo ha, quindi non lo vessa, lo Stato è vicino alla popolazione, gli dà i servizi, gli dà la sicurezza con la presenza dello Stato, con le forze dell'ordine, che chi viene catturato perché ha commesso degli efferati delitti viene assicurata la giustizia e non esce il giorno successivo, insomma. Allora la gente di buon grado accetta di collaborare con lo Stato e molto volentieri si mette nelle condizioni di pagare le tasse, perché si rende conto che poi queste benedette tasse vengono ridate al mittente o vengono investite in giuste cause. Di conseguenza così facendo non si arriva da nessuna parte, perché comunque la gente si rende conto che tutto si fa tranne che aiutare il popolo, e quindi si hanno delle discrepanze non indifferenti. A questo punto bisogna che la classe politica si dia una regolata, si dia una regolata e di concerto collabori con il proprio tessuto sociale. Se così non si cambia nel futuro, beh, ahimè, purtroppo non ci saranno possibilità di confronto con chi ci governa e questa nostra democrazia, ahimè, andrà a farsi friggere. Io direi di dare a Rino un attimo la regia con una breve pausa musicale. Al rientro dovremmo avere il sindaco di San Mauro in diretta radiofonica. Linea alla regia. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Oh, the lonely people, where do they all come from? Oh, the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks on the night, but there's nobody there. What does he care? Oh, the lonely people, where do E allora, di nuovo in diretta con CRMP Radio, carta e penne, studio Filippo Grosso per la parte tecnica, Simone Brancato, che ringrazio sempre per la sua squisita collaborazione. Dicevo, come dicevo prima, abbiamo fatto un'ampia disquisizione su quello che sta succedendo in Italia, sui non equilibri economici e finanziari che ci sono tra alcune categorie ed altre categorie. Ma parliamo di un altro fatto importante, quella famosa asse viario che collega San Mauro Castelverde con Gangi e poi quindi Geraci, sono tre comuni. Senza questo asse è chiaro che molti che hanno i loro siti lavorativi che ricadono su quelle zone hanno dei seri problemi di spostamento, di viabilità e quant'altro. Ne parliamo perché abbiamo saputo che naturalmente il sindaco di San Mauro, di concerto con quello, con i colleghi di Gangi e Geraci, hanno fatto un primo summit per capire un attimo come ci si può muovere per impedire la chiusura di questa strada, che già di fatto è stato fatto. Noi ci eravamo attivati oggi per sentire l'assessore Ramo della provincia alla viabilità Tomasino, ma non era raggiungibile. Abbiamo invece al telefono, e ringrazio per aver accettato l'invito, il sindaco di San Mauro Castelverde, il dottor Mario Azzolini, che ringrazio e saluto. Buongiorno Mario. Filippo, buon pomeriggio, è il mio dovere rispondere a te e ai cittadini della vostra zona che si trovano ogni giorno a fare i conti con questa gravissima emergenza. Possiamo definirla, se non la prima, fra le prime emergenze, insieme a quelle economiche. Cominciamo. No, io ho fatto un ampio ventaglio di attacchi verso chiaramente le cosiddette caste di barbieri, che ieri sera sulla trasmissione della RAI, dove tu presti il tuo servizio, ma della RAI nazionale, cioè parliamo di Porta a Porta, il collega, il grande collega che conduce quella trasmissione, ha dichiarato delle cose che sinceramente hanno fatto accapponare la pelle, perché se un barbiere del Senato, della Camera dei Deputati, percepisce 9.000 euro, è del tutto normale che poi il pensionato che ne percepisce 400 si incazza come una iena. Io credo che i barbieri di San Mauro tutti messi insieme non riguadagnano questi soldi. Dico, dovremmo cercare chi fa comunicazione, battere su questo tasto, perché se no non arriviamo a capo di nulla. Ma andiamo nello specifico. Tornando ai fatti nostri, questa vicenda della nostra viabilità, che è di pertinenza alla provincia, perché ognuno deve avere le sue responsabilità, è l'ennesima dimostrazione di come sia necessario, indispensabile e improrogabile lo scioglimento delle province, che dimostrano di non essere adeguate, di non essere strutture efficienti e necessarie al territorio. Perché la provincia di Palermo, su questo territorio, ma anche su altri, perché mi sono consultato con altri sindaci, mi è capitato per il lavoro che faccio di attraversare altre zone della provincia. Dirò di più, qualche settimana fa sono andato alla provincia di Messina a presentare un libro a Castel di Lucio, lì sono messi pure loro male, a Pettineo, eccetera. Le province si occupano d'altro, di feste e festine, la viabilità, che è un ruolo di loro stretta e indiscussa pertinenza, non viene affrontata. Mario, una domanda mi sorge spontanea. Tu intanto nelle riunioni che avete fatto, nei briefing che avete fatto con i tuoi colleghi di Gangi e Geraci, peraltro conosco personalmente, so che sono persone molto interessate e presenti sul territorio. Quali sono state le direttive che avete assunto per poi porcerle naturalmente a chi di dovere? Allora, gli impegni presi dalla provincia ad un tavolo tecnico a cui era presente il presidente, l'assessore al territorio e l'ingegnere responsabile della viabilità, è che intanto sulla San Mauro Ganci, dove c'è questa frana che ha portato alla chiusura, entro fine mese di gennaio dovrebbe attivarsi un cantiere per ripristinare la transitabilità. Allora, in questo momento l'asse viario è chiuso? Allora, l'asse viario è formalmente chiuso per, con una tabella, però la gente continua a passare perché non è transennato, cioè non è impedito il passaggio fisico, è stato posto un cartello, punto. Ho capito. Per la serie. Dopodiché noi ci siamo indignati perché nessuno dei tre sindaci è stato informato del provvedimento, dopodiché abbiamo ribadito il fatto che si è arrivati a questa situazione, nella fattispecie con la frana più grave, perché in questi anni non è stata fatta nemmeno la manutenzione ordinaria. Il comune di San Mauro è intervenuto abusivamente perché noi abbiamo fatto delle piccole opere su una strada che non è di nostra pertinenza. Si possono fare anche delle obiezioni, paradossalmente, ma voi... È come se io venissi a casa tua a fare un lavoro e tu dici non si spetta. Dopodiché c'è stato il famoso scippo del Consiglio Provinciale, grazie anche ad alcuni consiglieri della nostra zona, che hanno dirottato i soldi che sarebbero stati necessari per fare l'SP 52, sono stati smembrati, eccetera. Il Presidente e l'assessore hanno detto che ci sono altri 100.000 euro che da qui a qualche mese potrebbero essere spesi, e poi un appalto più grande di 1 milione di euro. Sul rifacimento totale della strada pesa sempre questo spettro del patto di stabilità. I soldi ci sono, ma non si possono spendere. Mario, perdonami, io capisco che chiaramente ci accalora perché siamo tutti madoniti, siamo tutti abbiamo delle proprietà, abbiamo dei siti nei dintorni, eccetera, ma ci sono dei pastori, ci sono dei ristoratori che perdono quotidianamente fior di soldi, e poi le tasse comunque bisogna sempre pagarle. Io nel mio intervento prima ho detto questo: è inutile che si parla di togliere il sommerso, di stanare i cosiddetti evasori evasori fiscali, se poi lo Stato, noi paghiamo le tasse, non ci mette nelle condizioni di usufruire delle tasse che paghiamo, ma è del tutto evidente che viene incentivata l'evasione fiscale. Allora, ti preannuncio... A cosa sto a pagare le tasse se io poi non ho la viabilità che mi serve, il treno che mi serve? Ti preannuncio che il comune nostro, che finora non è stato sottoposto al patto di stabilità, dal prossimo bilancio sarà sottoposto, anche il nostro, non è un provvedimento contro San Mauro, i comuni più piccoli, sì, anche noi dovremmo sottostare al patto di stabilità, cioè a dire saremo vincolati sulle spese e quindi, come dire, avremo, per esempio, noi siamo un comune virtuoso perché grazie a Dio non abbiamo debiti, il bilancio è sano, però non potremo spendere certe, non potremo fare certi investimenti perché costretti a sottostare al patto di stabilità. Ma Mario, che si faccia sulle grandi opere inutili il patto di stabilità, bravo. Su garantire il quotidiano a una piccola comunità. Bravissimo. E senti Mario, secondo te, adesso non voglio dire buttare benzina sul fuoco, ma tu sai che io sono una persona che si accalora con facilità nelle cose che non vanno, nelle cose storte, per cui mi consentirai il tono un po' aspro, ma non sarebbe anche il caso che queste tre popolazioni una volta per tutte scendessero in piazza a far capire a chi di dovere che non siamo meno a nessuno? Filippo, a San Mauro è stato costituito un comitato che è super partes, cioè non c'è divisione, non ci ma sono interessi di tutti, lì non c'entra la politica. Sì, e addirittura io avevo, fra virgolette, istigato gli amici del comitato a dare vita a una manifestazione anche davanti alla provincia, eccetera. Mi sa che c'è un certo senso di rassegnazione questo è sbagliato, Mario. E in passato, come tu sai, invece la popolazione di San Mauro si è fatta sentire in maniera anche forte e probabilmente se non si fosse fatta sentire non avrebbe ottenuto nemmeno quella strada fatta male su cui ora piangiamo, perché questa strada si è ridotta così perché a suo tempo è stata fatta malissimo. Ma comunque fu fatta, perché nemmeno questa avremmo avuto in questo momento. Senti, un'altra cosa mi sento di suggerirti, per carità di Dio, tu sei un uomo molto accorto e voglio dire sei anche il legale rappresentante. Si accettano. No, c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore su questo, guarda, leviamo le barriere ideologiche perché a nulla servono e a livello nazionale ne abbiamo avuto già dei riscontri, se non su quello regionale. Allora, il discorso è questo, ci sono delle comunità come San Mauro, Geraci, Gangi, Castelbuono, eccetera, che hanno bisogno di interagire, cioè bisogna unirsi in questi momenti, perché se no da soli non si va da nessuna parte e tu questo lo sai meglio di me. A questo punto vediamo il discorso della viabilità, ove è possibile dare tutti una mano, perché questa strada si sistemi, ma è del tutto evidente che non si può essere scevri dal mettere in atto anche quella famosa strada che sulla carta è stata fatta da chissà quanto tempo e poi un deputato nostro vicinore di casa se l'è portato in altra sede, non faccio nomi per ovvi motivi perché la radio non è mia, altrimenti sparerei anche il nome e cognome, voglio dire, di fare questa strada tra San Mauro e Castelbuono, perché se succede una strada, una frana dal bivio nostro verso San Mauro e dall'altro versante verso Gangi, San Mauro resta isolata. Stessa cosa vale per Geraci. A parte il fatto che noi Castelbuono ci affacciamo e la tocchiamo con la mano, però se ci dobbiamo andare dobbiamo fare 50 minuti di strada. Oh, e poi tu sai meglio di me, visto che sei sindaco del nostro comune, che insomma molti maurini e molti castelbonesi sono sposati come succede con Gangi, quindi i parenti, voglio dire, gli scambi ci sono di continuo, anche culturali se vogliamo. E allora battiamoci per queste cose, so che tu lo stai facendo, mi auguro che i colleghi tuoi di Gangi e Geraci ti appoggino in questo e che la cittadinanza invece si muova, non dorma, non sia dormiente, perché ecco, sennò... questo è importante, questo è importante perché i politici di livello superiore devono sapere che non hanno a che fare con un sindaco di qualsiasi colore esso sia, ma con una comunità tutta intera e tutta unita. Senti, mi sento di, oltre a farti gli auguri di buon anno a te e a tutta la giunta che tu presiedi, ma è del tutto evidente, caro Mario, che gli interessi di una collettività sono scevri dai colori politici. Lì c'è, cioè, il muratore che è comunista o se il falegname che è fascista, che è così chiamato, non è che passa quello che è comunista perché tu sei sindaco di sinistra e quindi può arrivare al bivio di buonanotte prima di arrivarci l'altro. Lì non esiste un discorso del genere, lì è un discorso di interesse generale che deve essere superiore a quello particolare. Ma che stiamo scherzando? Siamo d'accordo. Mario, io ti auguro di fare dei proseliti nel futuro. Io sentirò Tomasino, oggi l'avevo chiamato ma non mi ha risposto, forse impegnato in altre faccende. Lo sentirò nella prossima settimana. Forse è stato chiamato dalla consulta sulla questione del referendum, no? Visto che la provincia si occupa di cose di cui non si deve occupare. Ho capito. Poi se qualcuno mentre raggiunge la propria azienda pastorizia precipita con la Jeep e ci rimette le penne, questo quello poi non conta. No, ma loro hanno messo il cartello per salvare. Ah, ecco, e col cartello cosa faccio? Lascio l'azienda in asso. No, dico, stiamo rasentando veramente il ridicolo. Intanto ti faccio gli auguri di buon anno. Okay, grazie, anche a voi. Grazie per aver accettato l'invito. Speriamo. No, ma stai scherzando, grazie alla disponibilità tua. Speriamo che nei futuri giorni, insomma, si possano avere delle notizie più certe e sicuramente posti in essere quelle che sono gli impegni, e quello è importante, altrimenti non ci vengono a chiedere i voti poi quando gli servono. A noi servono le strade. Ecco, questo è importante. A noi servono le strade. Buona giornata. Grazie, ciao, sindaco, grazie ancora, buon lavoro a te. Ciao, ciao anche a te, ciao. Allora, prima di salutarci, abbiamo tirato per le lunghe, abbiamo anche sforato. Devo ringraziare altri tre sponsor. Uno di questi è il 2M Porte, che arredano con gamme di porte d'interni illimitate in ciliegio, in palessando, oppure porte in rovere massiccio, pensate a 600 euro più incluso il montaggio. Poi le porte fuori misura, ma dovete recarvi nell'azienda dove ha l'esposizione in via Cavour 74 a Castelbuono, la produzione in via Contrada San Calogero. Telefonate prima allo 0921 67 012, perché senza appuntamento non vi ricevono, perché sono operatissimi di lavoro, perché lavorano veramente bene in questa azienda. Poi arredo di interni, cioè i mobili fatti su misura, vi fanno anche questo. Le maniglie per le vostre porte d'interni, c'è una vasta gamma, potete scegliere quello che più vi piace. Se invece volete mangiare del buon pesce, volete portare a casa un po' di cotto, di pesce di qualsiasi natura, frutti misti di mare, ricci, crostacei, cotti e crudi, pesce fresco, in questo ristorante c'è anche la vendita di frutti di mare e crostacei. Stiamo parlando del ristorante del sapore di mare. Dove lo trovate? Lo trovate sul lungomare Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Merese. Vi do il numero per le vostre prenotazioni: 091 811 447. Ristorante ai sapori di mare, e veramente avete la possibilità di gustare il mare mentre pranzate o cenate in questo famigerato ristorante. Chiudo con Castelbuono ancora, con la Lanterna, una trattoria gastronomia tipica locale. Lì veramente gustate i piatti tipici di Castelbuono e di tutte le Madonie, cominciando dai funghi alla pasta, all'olio d'oliva, ma anche alla carne e soprattutto il dolce, che viene fatto artigianalmente all'interno di questa trattoria. Vi ricordo la Lanterna la trovate di fronte, mettetevi con le spalle ai quattro cannoli alla Venere Ciprea, e salendo la traversina la trovate sulla vostra destra. È molto carino, è accogliente e si mangia veramente bene. Quindi cosa dirvi altro? Nulla, abbiamo parlato di tutto e di più. Un grazie a Gio Castellano, un grazie al sindaco di San Mauro Castelverde, il dottor Mario Azzolina. Ringrazio alla parte tecnica, come sempre, Simone Brancato per la sua disponibilità e la sua professionalità. Ringrazio voi per essere stati con noi fino a questo momento. Un grazie ancora, un abbraccio a tutti. L'appuntamento è per domenica alle 10:15 per la replica, invece la diretta giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma. Da Filippo Grosso, grazie ancora e un bacio a tutti. Ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di